fido di te e non ti chiamo fido, né mi reputo re, perché sono il più figo, sono solo un tipo che si distingue dalla massa finché la mia massa non si estingue. Tu lascia che sia io a fare la prima mossa. Se capita a te, passa così che dopo io possa scendere a farmi le ossa nella fossa dei leoni. Motivi, contraddizioni, distingue i cattivi dai buoni. Di buoni propositi, fin troppi se ci penso. Lasciamo il buon senso nei depositi e non ha senso. Diventiamo nevrotici in una vita priva di legami emozionali, perché viviamo agli antipodi. È un tipo di vita che non ci giova, ne prova che spesso siamo più buffi e bossi di una supernova. Ciò che accade con ognuno è scontento di dove si trova, e dopo poco si ritrova immischiato in giri di droga. E prego Dio fino al crepitio, ma sono io il mio Dio quando plasmo il mio destino. Bambino che ero, ora è cresciuto il mio ego, spero che qualcuno dall'assù venga a salvarmi per davvero. E prego Dio fino al crepitio, ma sono io il mio Dio quando plasmo il mio destino. Bambino che ero, ora è cresciuto il mio ego, spero che qualcuno dall'assù venga a salvarmi per davvero. Vorrei essere felice, ma il mondo mi vieta di sentirmi tranquillo. Una lacrima mi disseta, però non mi completa. La fame mi inquieta, sono a dieta d'amore, sono lungi dalla meta. E se sono emarginato è per scelta di non ficcarmi in una realtà altrimenti troppo stretta, costretta ogni stretta di mano con gente che non conosciamo. Sembriamo vicini ma stiamo lontano, e se il cuore è distante mi sembra patetico che le mani siano strette, quindi il braccio è chilometrico. Di gomma viviamo nell'ombra, lo so che è terribile, ma purtroppo è nella norma. È ciò che trasforma il pane quotidiano in farina, ciò che rende più ripido ogni collina, che rende critica ogni mattina in cui mi sveglio e vado via e penso all'utopia in cui potrò vivere meglio. E prego Dio fino al crepitio, ma sono io il mio Dio quando plasmo il mio destino. Bambino che ero, ora è cresciuto il mio ego, spero che qualcuno dall'assù venga a salvarmi per davvero. E prego Dio fino al crepitio, ma sono io il mio Dio quando plasmo il mio destino. Bambino che ero, ora è cresciuto il mio ego, spero che qualcuno dall'assù venga a salvarmi per davvero. E prego Dio fino al crepitio, ma sono io il mio Dio quando plasmo il mio destino. Bambino che ero, ora è cresciuto il mio ego, spero che qualcuno dall'assù venga a salvarmi per davvero. Prego Dio fino al crepitio, ma sono io il mio Dio quando scelgo il mio destino. Bambino che ero, ora è cresciuto il mio ego, spero che qualcuno dall'assù venga a salvarmi per davvero. Finito! Oh!